Capitolo quinto. Credere negli inviati apostoli, su di loro la pace. La fede nella missione apostolico-profetica come veicolo della rivelazione divina è il quinto articolo del credo islamico. Per ministerio di apostoli e profeti furono diffusi nel corso dei secoli gli insegnamenti e i comandamenti contenuti nelle rivelazioni divine. A ogni gente della terra Allah ha inviato il suo messaggio per mezzo dell'attività di apostoli e profeti. E ogni messaggero di Allah, sia gloria a lui l'Altissimo, parlava la lingua della sua gente, destinataria del messaggio divino, per informarla con chiarezza e senza equivoci sul volere di Allah l'Altissimo. Dice Allah, rifulga lo splendore della sua luce nel sublime Corano: non abbiamo mandato apostoli se non con la lingua della loro gente, perché il messaggio potesse essere esposto con precisione linguistica e concettuale. E dice ancora l'Altissimo: non abbiamo inviato apostoli se non perché fossero obbediti. La parola coranica Rasulun, che in arabo significa apostolo, inviato, indica il messaggero di Allah, incondivisa è la sua divinità, a cui è stata affidata la missione di diffondere una rivelazione scritta. La parola coranica Nabiyun, che in arabo significa profeta, portatore di notizia, indica il messaggero di Allah al quale è stata affidata soltanto la missione di predicare, senza però avere ricevuto una rivelazione scritta. Alla menzione del nome di ogni messaggero di Allah, il musulmano fa seguire l'invocazione di pace su di lui, dicendo alayhi salam, cioè su lui la pace. La serie dei messaggeri di Allah, la pace su loro, incomincia con Adamo, su lui la pace, e si chiude con il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria. Tutti i messaggeri hanno portato lo stesso messaggio. Nessuno ha diritto di essere adorato tranne Allah, che non ha condomini nella sua divinità. Questo è il messaggio della vera religione. Questo è il messaggio dell'Islam. Per questo motivo, la religione di tutti i messaggeri di Allah, apostoli e profeti, è Islam. E tutti i messaggeri di Allah, su loro la pace, sono musulmani, cioè credenti nell'unità, unicità e unipersonalità della divinità. Allah, sia gloria a lui l'Altissimo, e obbedienti al comandamento divino. Perciò il profeta Ibrahim, Abramo, su lui la pace, ebbe per religione l'Islam e fu musulmano. Così il profeta Musa, Mosè, su lui la pace, ebbe per religione l'Islam e fu musulmano. La stessa cosa dicasi per il profeta Davide. Egli ebbe per sua religione l'Islam e fu musulmano. Il Messia, nella lingua greca il Cristo, Gesù, figlio di Maria, su lui la pace, servo di Allah e creatura umana, a cui Allah, potente ed eccelso, egli è, diede esistenza con un miracolo, ebbe per sua religione l'Islam e fu musulmano. I seguaci di Mosè, i seguaci di Gesù, i seguaci di ciascuno dei messaggeri di Allah furono musulmani e furono veri seguaci di Mosè, di Gesù e di ciascuno degli altri messaggeri solo coloro i quali non si allontanarono dal loro insegnamento su Allah, rifulga lo splendore della sua luce, e dalle pratiche di vita prescritte da loro per ordine di Allah l'Altissimo. L'ultimo messaggero di Allah è Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, servo e apostolo di Allah, del quale Allah l'Altissimo dice nel sublime Corano: Muhammad è l'apostolo di Allah e il sigillo dei profeti. Con il profeta Muhammad, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria, la missione apostolica e il magistero profetico sono conclusi. Nel sublime Corano sono indicati solamente i nomi di alcuni dei messaggeri, su loro la pace, che Allah, rifulga lo splendore della sua luce, ha suscitato in mezzo agli uomini delle diverse genti e nelle diverse generazioni della storia dell'umanità. Essi, nell'ordine di tempo, sono Adam, Adamo, su lui la pace. Egli fu la prima creatura umana di Allah e con Eva, Hawa, ha formato la prima coppia da cui ha avuto origine l'umanità. Con Eva contravvenne al precetto divino di non avvicinarsi all'albero proibito del giardino, istigato da Satana. Si pentì e Allah lo perdonò, facendo di lui il suo primo profeta sulla terra. L'insegnamento del dovere di obbedienza ad Allah, rifulga lo splendore della sua luce, che egli diede ai suoi figli, nipoti e pronipoti, fu insegnamento di Islam, cioè obbedienza al comandamento di Allah, sia gloria a lui l'Altissimo. Egli fu il primo profeta di Allah e come tale fu musulmano. Noah, Noè, su lui la pace. Egli fu il profeta di Allah che, insieme al pugno di uomini che avevano creduto alla sua missione profetica, fu salvato nell'arca dal diluvio universale con cui Allah, sia gloria a lui l'Altissimo, punì l'umanità per la sua disobbedienza. Punì quell'umanità che, perdutasi nel politeismo idolatrico, rifiutava ostinatamente di tornare a rendere solamente al suo creatore il culto di adorazione. Gli uomini che si salvarono dal diluvio sull'arca di Noè erano musulmani, la loro religione era l'Islam, essi furono gli antenati post-diluviani di tutte le razze umane. I bianchi discendono da Yafet, i neri discendono da Cam, arabi ed ebrei discendono da Sem, e tutte le altre genti discendono dagli altri seguaci di Noè. La religione dei primi uomini post-diluviani fu l'Islam, quindi la religione delle radici di ciascun popolo è l'Islam. Salih, Shu'aib, Hud, su loro la pace. Essi sono tre profeti inviati da Allah, sia gloria a lui l'Altissimo, a tre popolazioni semitiche insediate in Al Jazeera, la penisola chiamata poi Arabia, dopo il suo popolamento da parte degli arabi, discendenti di Ismaele, su lui la pace. Ibrahim, Abramo, su lui la pace. Egli fu l'amico intimo di Allah, sia gloria a lui l'Altissimo, e fu il costruttore, unitamente al di lui figlio Ismail, della nobile Kaaba, il santuario a forma di cubo che si trova al centro della sacra moschea nella città santa della Mecca. Ismail, Ismaele, su lui la pace, fu figlio di Abramo e di Agar, collaborò con il padre, sopra ambedue la pace, alla costruzione della nobile Kaaba. Egli è il capostipite della stirpe degli arabi, che da lui vengono anche chiamati Ismaeliti, e quindi antenato del profeta Mohammed, che Allah lo benedica e la ben gloria. Ishak, Isacco, su lui la pace, fu figlio di Abramo e Sara. Yaqub, Giacobbe, su lui la pace, fu figlio di Isacco, venne chiamato Israele, e dal suo nome i discendenti di Abramo per via di Isacco e Giacobbe si chiamano figli di Israele, israeliti. Yusuf, Giuseppe, su lui la pace, fu figlio di Giacobbe, famosa è la sua vicenda nella terra di Misr, che forma oggetto di un intero capitolo del sublime Corano, la sura di Yusuf, numero 12. Yunus, Giona, su lui la pace, fu il profeta che Allah salvò dal ventre della balena. Musa, Mosè e Harun, Aronne, su loro due la pace, furono inviati di Allah a Faraone per liberare dall'oppressione faraonica i figli di Israele. Mosè ricevette la Torah, la legge, sul monte Sinai. Ayub, Giobbe, su lui la pace, profeta proverbiale per la pazienza. Daud, Davide, su lui la pace, fu profeta di Allah e re dei figli di Israele, ricevette la rivelazione dei salmi. Sulaiman, Salomone, su lui la pace, figlio di Davide, fu profeta di Allah e re dei figli di Israele. Ilias, Elia, Ilyasau, Eliseo, Idris e Zulkifl, su loro la pace. Zaccaria, Zaccaria, su lui la pace, fu il tutore di Mariam, figlia di Imran, e madre del Messia Gesù, detto figlio di Maria. Yahya, Giovanni Battista, su lui la pace, fu figlio di Zaccaria. Al-Masihu Isa ibn Mariam, Gesù, su lui la pace, il suo nome completo è il Messia Gesù, figlio di Maria. Fu concepito da Maria Vergine per effetto di un verbo, kun, uguale esisti, che Allah l'Onnipotente ha attivato nel grembo di lei, sicché Gesù nacque miracolosamente senza padre. Ricevette la rivelazione dell'Evangelo. Allah, sia gloria a lui l'Altissimo, per accreditarlo fra i figli di Israele come suo apostolo e profeta, compì miracoli e prodigi per mezzo di lui, ma ciò nonostante Gesù non fu riconosciuto né allora né mai dopo e fino ad oggi dal suo popolo come profeta e apostolo di Allah l'Altissimo. Non fu crocifisso, ma venne sottratto da Allah l'Onnipotente al complotto omicida della classe dominante israelita, che nel messaggio islamico del Vangelo, predicato da Gesù, aveva visto una minaccia mortale al proprio potere. Una crocifissione ci fu, ma sul patibolo fu inchiodato un simulacro di Gesù, realizzato dall'onnipotenza divina, sicché i persecutori credettero di averlo ucciso mettendolo in croce, mentre ne ebbero soltanto l'illusione, come testimoniato da Allah, il testimone di tutti gli eventi, nel sublime Corano. Secondo la testimonianza resa da Allah nel sublime Corano, e nessun testimone è più veritiero di Allah, l'onnipresente, che tutto osserva, vede, ode e sa, e al quale nulla sfugge, Gesù vivente fu assunto in cielo, dove ora vive presso Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo. Dal cielo Gesù, su Lui la pace, tornerà sulla terra come segno dell'imminenza dell'ora della fine del mondo. Le vicende del suo ritorno sulla terra sono narrate negli scritti escatologici desunti dal sublime Corano e dall'insegnamento del profeta raccolto nel Hadith. In sintesi, il Messia Gesù, figlio di Maria, tornerà sulla terra dopo che essa sarà stata dominata dall'Anticristo, affronterà l'Anticristo e lo ucciderà, si sposerà e avrà figli, sarà giudice e applicherà la legge islamica, spezzerà le croci, decreterà lo sterminio dei suini e l'abolizione dell'imposta coranica per i non musulmani, poiché al suo ritorno sulla terra cristiani e seguaci del giudaismo entreranno nell'Islam. Si ritirerà sul Sinai quando Gog e Magog avranno invaso la terra e sul Sinai pregherà Allah di sterminarli. La sua preghiera sarà esaudita. Morirà al 45° anno dalla sua discesa sulla terra e la sua salma verrà sepolta a Medina vicino alla tomba del profeta Muhammad, insieme al quale risorgerà nel giorno della resurrezione.